Ciao a tutti cari ascoltatori di Radio Big World e benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Io sono sempre Elisa Elena Carollo, la vostra aspirante attrice di fiducia. E anche oggi vi racconto di un monologo che sembra tanto distante dalla vostra vita quotidiana, ma in realtà forse non lo è così tanto. Di che ricorrenza ho deciso di parlare questa settimana? Beh, se mi conosceste un po' come persona, non avreste nessun dubbio. Che giorno è stato ieri? Il 31 ottobre, cioè Halloween. E le persone che mi conoscono sanno che io adoro Halloween. Adoro i racconti di paura, tutto ciò che è oscuro, misterioso, inquietante, mi entusiasma tantissimo e quindi non potevo non fare una puntata a tema. Ovviamente citando uno dei classici del teatro che forse non è spesso associato ad Halloween, ma secondo me ci si presta bene. Infatti anche in un post sul mio blog di un paio di anni fa l'avevo citato e avevo fatto un articolo a tema per Halloween proprio su quest'opera teatrale. Di cosa sto parlando? Di Macbeth, scritto da William Shakespeare. Ma prima di parlare direttamente del testo teatrale, vi faccio una premessa sul significato che ha per me la ricorrenza di Halloween. Non mi piace in realtà molto tutta la tradizione americana che c'è dietro, mascherarsi, dolcetto scherzetto, i bambini che vanno in giro per le case, insomma, non è questo che mi piace tanto della ricorrenza. Quello a cui mi richiamo io è il significato originario della festa celtica, che celebrava la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno. La fine dell'estate era una cosa positiva perché per un popolo di pastori e agricoltori comunque significava che il lavoro nei campi era finito e che i frutti del loro duro lavoro erano disponibili e pronti per essere consumati durante l'inverno. Però la natura durante l'inverno ha una sorta di morte, perché gli alberi perdono le foglie, gli animali vanno in letargo. C'è questa apparenza legata alla morte, appunto. E per questo motivo si credeva che nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre si assottigliasse il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti e che gli spiriti potessero entrare nel nostro mondo. Ok, questo io lo trovo abbastanza affascinante in realtà. Potete non amare gli spiriti quanto me, ma dovete ammettere che questa è un'idea che ha dato spunto a parecchi testi della narrativa. E ora arriviamo a Macbeth. Perché parlare di questo testo ad Halloween? La storia la saprete già un po' tutti. È la storia di questo nobiluomo scozzese che per la sua ambizione di diventare re compie una serie di omicidi che lo portano effettivamente a raggiungere questo obiettivo, ma portano anche la sua rovina alla fine della tragedia. Già all'inizio del testo c'è un elemento soprannaturale, perché ci sono le tre streghe che fanno la profezia che Macbeth diventerà re e quindi questo porta il protagonista a desiderare di diventare re, perché prima non ci aveva neanche pensato. Quindi possiamo dire un po' che la profezia delle streghe è il motore della storia. Però non sarebbe successo tutto quello che è successo senza la vera cattiva della storia, che è Lady Macbeth, la moglie del protagonista. Perché se lui ha degli scrupoli morali, ha delle esitazioni, lei no. Lei assolutamente deve seguire il suo obiettivo ad ogni costo. E anzi, c'è addirittura un momento in cui invoca gli spiriti del male per darsi la forza e la crudeltà di commettere gli atti terribili che vuole commettere. E questo, secondo me, è veramente terrificante. perché si tratta di atti crudeli reali. Anche il corvo, con la sua voce rauca, gracchia il fatale ingresso di Duncan sotto i miei spalti. O spiriti che v'associate ai pensieri di morte, venite, snaturate in me il mio sesso e colmatemi fino a traboccare della più disumana crudeltà. Fatemi denso in sangue, sbarratemi ogni accesso alla pietà e che nessuna visita di contriti e pietosi sentimenti venga a scrollare il mio pietoso intento e a frapporre un solo attimo di tregua tra esso e l'atto che dovrà eseguirlo. Accostatevi ai miei seni di donna, datemi fiele al posto del mio latte, voi che siete ministri d'assassinio e che, invisibili nella sostanza, siete al servizio delle malefatte degli uomini, dovunque consumate. Vieni, o notte profonda, e fatti un manto del più tetro vapore dell'inferno, così che l'affilato mio coltello non veda la ferita che produce e non si sporga il cielo dalla coltre della notturna tenebra a gridare al mio braccio «Ferma! Ferma!» Come abbiamo ascoltato, Lady Macbeth evoca una serie di immagini sovrannaturali, chiama gli spiriti associati ai pensieri di morte, ministri dell'assassinio, chiama la notte perché scenda su di lei. Però la cosa più paurosa, secondo me, non sono questi riferimenti, è il fatto che lei chiede la forza per compiere dei delitti reali, delle crudeltà contro delle persone vere che lei conosce e che dovrà uccidere nella realtà. Poi, ok, chiede anche di essere privata dalla sua femminilità perché, secondo la mentalità dell'epoca, le donne non potevano essere cattive. Erano associate a questo stereotipo della bontà, della donna pia. Però ricordiamo che il testo è stato scritto agli inizi del 600 e sicuramente avete in mente anche voi degli esempi che vi dicono il contrario. Anche le donne, come gli uomini, possono compiere dei delitti efferati e che mettono i brividi. Quindi lasciamo un po' perdere questo aspetto. Quello che mi fa veramente paura di questa storia è la malvagità reale, l'ambizione che spinge a non guardare più in faccia nessuno e a commettere gli atti peggiori. Non tanto gli spiriti, le streghe, tutte queste cose che sì, possono essere affascinanti, ma chi di voi ha mai visto una strega nella vita reale? E anche quando leggo dei libri o guardo dei film, è sempre la malvagità reale delle persone, quella che potrei trovarmi davanti anch'io nella vita, che mi fa più paura. Perché alla fine i fantasmi, i vampiri, gli zombie, qualsiasi cosa sia stata inventata dalla letteratura horror, fa sempre meno paura di ciò che vediamo nella realtà. Perché alla fine sappiamo che i vampiri sono inventati. Ci fa paura il clown di It quando lo vediamo al cinema, però una volta finito il film non ci aspettiamo veramente di vederlo sbucare da un tombino. La vera oscurità è quella che si cela nell'animo umano. Sono le ambizioni e i desideri che seguiamo con furia cieca tanto da dimenticarci di tutte le altre persone e ad essere disposti a sacrificarle, proprio come fa Macbeth. Oppure la rabbia che ci acceca. Oppure il rimorso per quello che abbiamo fatto che ci divora, come succede alla fine proprio a Lady Macbeth. Insomma, nella nostra vita quotidiana non ci dobbiamo guardare dai mostri, dagli zombie, dai vampiri, dai fantasmi o dalle streghe. Ci dobbiamo guardare da queste emozioni oscure che potrebbero trovarsi dovunque, potrebbero trovarsi anche dentro di noi. Possiamo non crederci, possiamo negare, però in fondo lo sappiamo che c'è un lato un po' meno buono anche dentro ognuno di noi. Normalmente riusciamo a tenerlo a bada, però potremmo riuscirci sempre? Potrebbe esserci una situazione in cui non riusciamo più ad arginarlo? Questo è quello che a me fa veramente paura. La notte di Halloween ormai è passata. Gli spiriti non possono più entrare nel nostro mondo, ma io vi avviso di guardarvi dalla malvagità umana che trovate negli altri e che potreste trovare anche dentro voi stessi. Spero che questa puntata vi sia risultata interessante e che abbiate voglia di seguirmi ancora la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 20:30, qui su Radio Big World.